24 mattino. Sono le 7:15 minuti 50 secondi in questo momento. Un buongiorno da Gigi Donelli, da Peter Bescapè che è in regia, lo era un momento fa, lo è anche adesso, da Alessandro Longoni che ci assiste nella realizzazione di questa parte del programma. Dunque, questa mattina andremo a riprendere un classico ormai, diciamolo senza tema di smentita, il tema degli stipendi dei politici. Siamo sempre un po' combattuti quando, o meglio certe volte quando parliamo di questi temi, perché c'è un po' il rischio di cadere nel populismo e nell'antipolitica. Quando però escono dei rapporti come quello di ieri, per cui un gruppo di persone sicuramente di livello e competenze elevato riesce a non produrre un risultato, allora riteniamo che sia opportuno insistere perché non si arrivi più a un paese in cui un rapporto sullo stipendio, sulla retribuzione, sul costo di un certo gruppo, che siano i politici o altri, a questo punto poco importa, possa non essere chiaro, possa essere incerto, possa portare il presidente di questa commissione a dire: non siamo riusciti a fare i conti. Persone, ripeto, che i conti li sanno fare. Allora ritorneremo, insisteremo con questo tema, chiederemo chiarimenti ai nostri ospiti, lo faremo a partire dalle 8:30, proprio coinvolgendo due esponenti della politica, due deputati che sentiremo hanno alcune idee in proposito. E poi a partire dalle 8:20 cercheremo di ragionare anche su un altro spunto della cronaca, la notizia di ieri, direi una notiziola da un certo punto di vista, arriva attraverso un sito online britannico, dice: Facebook causa di un terzo dei divorzi. Ora, in un primo momento abbiamo pensato un po' uno scherzo, no? Uno di queste notizie, diciamo, deboli che trovano grande spazio nel, appunto, nei periodi natalizi. Poi però abbiamo sentito un legale e ci ha descritto una realtà, almeno per me e per i miei colleghi, insospettata. Ed ecco perché parleremo oggi anche di quest'altro tema in una giornata peraltro, e allora, tanto per cominciare un po' a riprendere il tema successivo, una giornata peraltro in cui si parla di internet, si parla di Facebook anche sui quotidiani italiani, e da lì ripartiamo. Già, prima di vedere insieme i titoli principali, vi segnalo un'anticipazione che troviamo oggi sulle pagine di Scienza della Stampa. Il titolo è: Internet, l'Eden del conformista. Il vero perché è vero il principio che gli amici dei miei amici sono i miei amici. Insomma, si fa tanto parlare di certe brutte abitudini italiane, di certi retaggi del passato sui legami, il familismo eccetera, e un interessante articolo firmato da Claudio Altafini della Sissa di Trieste, quindi un centro di ricerca insomma di cui l'Italia si vanta, ci racconta che i social network spingono all'imitazione e al consenso, e che insomma internet, tutt'altro che essere quella piattaforma o essere solamente quella piattaforma di esplorazione e di innovazione, è anche un luogo dove si coltiva il conformismo. Ci ritorniamo tra non molto, e ora vediamo quelle che sono le aperture, i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola: liberalizzazione e cantieri al sud, e Il Sole 24 Ore che riporta naturalmente lo scontro, naturalmente, perché poi lo troviamo ovunque, scontro Premier CGIL sulla concertazione, mentre Confindustria è pronta al dialogo. Le misure per le liberalizzazioni delle attività di imprese per far ripartire le grandi opere che il governo intende varare entro gennaio sono state al centro di un lungo confronto ieri tra il primo ministro Mario Monti, alcuni ministri, il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. Confermata la tabella di

tempo su internet, come si fa a capire quando davvero è troppo? Allora, infatti non è semplice anche a livello probatorio, cioè in una causa di separazione non è semplice poi provare che la causa scatenante di una separazione è data proprio da internet, però ci sono stati dei casi, e me ne sono occupata anch'io personalmente, di matrimoni finiti o perché per esempio il coniuge la sera dopo cena invece appunto di questo avviene di solito con regolarità, cioè ci sono i mariti ma anche le mogli che riescono poi a dimostrare che il partner per esempio la sera appunto stava in chat, a volte appunto anche con prove testimoniali oppure a volte purtroppo anche con escamotage meno leciti, quindi mandando la richiesta di amicizia al coniuge su Facebook attraverso un nickname e poi producendo in giudizio anche la corrispondenza ottenuta in questo modo, quindi cioè, non c'è un limite fissato dalla legge. Trappoloni digitali, veri e propri trappoloni digitali, in cui uno, digitali. Lei o lui si traveste da chissà quale altra figura per indurre in tentazione. Ecco, attenzione però a non utilizzare nomi o appunto username di persone realmente esistenti, perché in questo caso non solo la prova non sarebbe utilizzabile ma sarebbe addirittura reato. Ora, come dicevo prima, non c'è un limite, non è che c'è mezz'ora al giorno, un'ora al giorno, la legge non lo fissa, però la Cassazione ha già stabilito che trascorrere appunto gran parte della giornata o del tempo libero su internet lede il rapporto e quindi ovviamente. Chiarissimo, ecco, per questo come dire in fondo si estende a qualsiasi cosa, abbiamo citato prima gli sport piuttosto che, ma parliamo un momento di privacy, tutto questo sembra che nella piazza virtuale tutto sia permesso, lei ha detto attenzione a non rivestire i panni di qualcun altro, perché in questo caso si configura anche un reato, però insomma al di fuori di questo caso limite accedere alle informazioni è autorizzato, non c'è una violazione della privacy nel momento in cui ci si introduce appunto regolarmente nel mondo di Facebook? Allora, non si può entrare nel profilo del partner, cioè la privacy è tutelata anche tra coniugi, quindi io non posso né forzare né cercare di indovinare o intercettare la password di mio marito, questo è vietato dalla legge anche in Italia. Quello che si può fare però è per esempio visionare il profilo pubblico del marito tramite la catena abbastanza insidiosa, l'amico dell'amico, se io sono amico di mio marito su Facebook posso comunque visionare la sua pagina pubblica, oppure ecco, proprio tramite la catena l'amico dell'amico io posso risalire a delle informazioni che magari il mio partner avrebbe anche voluto tenere nascoste, quindi questo si può fare, cioè quello che è lecito è visionare i profili, il post pubblico, quindi che l'altra persona ha deciso di rendere pubblico, quello che non posso fare è invece produrre in giudizio corrispondenza di tipo privato, questo avviene sia su Facebook sia nelle chat, quindi come non è lecito prendere visione della messaggistica privata di Facebook, non lo è nemmeno produrre in giudizio per esempio i messaggi chat del partner, a meno che non ci sia una giusta causa, ma sono eccezioni. Sono casi particolari. Gli amici degli amici sono i miei amici, stamattina leggevo in rassegna stampa il principio secondo la Sissa di Trieste che raccontava un articolo intitolato Internet, l'Eden del conformista, Eden fino a un certo punto, insomma bisogna sì. È un mondo come dire, virtuale ma estremamente reale per certi versi. Ci dica, avvocato, uomini e donne sono almeno in questo ambito, tra la ricerca delle prove o il fatto di lasciare queste grandi tracce di colpevolezza sul web, sono uguali o hanno comportamenti molto differenziati? Allora, sulla base della mia esperienza professionale, diciamo che in genere le donne sono un po' più furbe, tra virgolette, nel senso cercano porre un po' più in trappola il marito rispetto appunto al corpo. Al marito. In genere gli uomini, sulla base della mia esperienza, posso dire che per esempio utilizzano password facilmente individuabili o comunque insomma hanno atteggiamenti su internet un po' più scontati. Questo pone le donne in un atteggiamento più aggressivo, però attenzione, come dicevo all'inizio, è un atteggiamento aggressivo che però si può rivelare anche un boomerang, quindi magari presi dalla rabbia di una separazione si possono commettere dei comportamenti, delle condotte che poi potrebbero rivelarsi nocive. negative, quindi attenzione a utilizzare Facebook in maniera istruttoria, cioè per prendere le prove fai da te, perché questo potrebbe essere veramente un danno anche per la moglie. Quindi mai, il consiglio è mai insomma intromettersi nella corrispondenza privata del marito, ma cercare insomma di ottenere le prove per altre vie, quindi semmai ove necessario attraverso la classica prova testimoniale, in cui Facebook può essere magari soltanto il punto di partenza per scovare un tradimento, però poi ecco non andare troppo oltre. Mi sono capitati dei casi addirittura di persone che avevano confessato di aver installato sul computer dei software cosiddetti spia, no? In grado di intercettare la password del marito, di indovinarla, eccetera. Ovviamente atteggiamenti del genere poi sono controproducenti, perché si tratta di software facilmente rinvenibili in commercio anche gratuitamente, però le prove acquisite in questo modo ovviamente non avrebbero alcuna rilevanza probatoria. Grazie avvocato Marafino, lo ricordo, Marisa Marafino è un esperto di questi temi, ha pubblicato tra l'altro Come non perdere il lavoro, la faccia all'amore al tempo di Facebook, insomma gli amici dei miei amici sono i miei amici, ma davvero è sempre così, a quanto pare non proprio al 100%. Ma adesso dopo una breve pausa ci spostiamo e torniamo proprio d'imperio sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, il tema degli stipendi in aula e scontro sui dati per il Sole 24 Ore questa mattina in edicola, e noi tra un momento avremo due ospiti, Giuliano Cazzola, deputato PDL, vicepresidente Commissione Lavoro Pubblico e Privato, e Antonio Borghesi, deputato dell'IDV, naturalmente 800 24 00 24 per i vostri contributi. A tra poco. 24 mattino. Degli uomini che 40 anni fa passavano tutto il tempo libero a pesca o a caccia, ci scrive attraverso l'SMS il 349-238-6666 un ascoltatore, altri messaggi, o magari un'ascoltatrice, in realtà non è specificato. Chi scrive anche a proposito del tema precedente dice: a me piace Equitalia, l'adoro, anche il fisco a cartina lo adoro, sono impiegato, le mie tasse le pago. Tenete alto il tiro sull'evasione, per favore, su questo può contarci. E con piacere che vi ricordo tra l'altro l'appuntamento che Valentina Furlanetto segue ormai da settimane, che è raccolto interamente sul nostro web, appunto sul paese, sull'Italia dell'evasione fiscale. Continueremo a tenere alto il tiro senz'altro. Allora, stipendi in aula e scontro sui dati verso correttivi su portaborse e trasporti, la Camera compensi da 5.000 euro netti, questo è il titolo di questa mattina dell'approfondimento a pagina 6 sul Sole 24 Ore. E su questo tema io saluto, abbiamo due ospiti in arrivo, anzi mi dicono in regia, ma un nostro ospite ci è già raggiunto, è deputato del PDL, vicepresidente Commissione Lavoro Pubblico e Privato, onorevole Giuliano Cazzola, buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, onorevole Cazzola, da Bologna se non sbaglio. Sì, ecco, Bologna. Lei non è d'accordo, lo ha scritto, lo ha detto, cos'è che non le torna in questo conto? Ma, prima di tutto non sono d'accordo con il metodo, perché una commissione autorevole presieduta da il presidente dell'Istat, composta da esperti di chiara fama, non può su un argomento delicato, sensibilmente politico come questo, no? Uscire e dire: guarda, noi non ci abbiamo capito nulla. È complesso fare un'analisi per vedere quali sono, per fare dei confronti, però nel frattempo vediamo questi dati, diamo in pasto l'opinione pubblica a questi dati che nel pomeriggio vengono sconfessati dall'ufficio stampa della Camera, cioè senza fare un confronto, non so, sul potere d'acquisto, senza fare un confronto sui sistemi fiscali. Sono perfettamente d'accordo con lei su tutta la prima parte, è una cosa che devo dire lascia sbalorditi il fatto che una commissione di esperti, l'ho detto nell'agio, ecco, però arriviamo un po' al punto, ecco, sì. Quindi d'accordissimo su questo aspetto, anzi ci piacerebbe poi avere, ma fare, ecco, che poi allora fare, questo è, dopodiché si parla di cifre, sono stati fatti. Allora è possibile che la Camera abbia compensi da 5.000 euro netti? Allora c'è qualcosa che non torna in tutti questi conti. No, allora 5.000 euro netti sono l'indennità perché c'è un prelievo fiscale che è dalla metà, dell'indennità che di poi ci sono degli amenicoli, ci sono sono grandi questi amenicoli. Allora stiamo parlando di uno stipendio, perché siccome noi italiani siamo abituati a parlare di stipendi e quindi per carità lordo e netto ci arriviamo tutti, ma dopodiché quando entriamo in questa vera e propria palude di voci, trasporti, spese, insomma la sensazione è davvero sgradevole. È possibile che non si riesca a avere un dato su quanto guadagna legittimamente un deputato della Repubblica che fa un lavoro importante? Questo ci lascia un po' rabbiosi. Ma guardi che però basta credo andare su internet per trovare tutte le voci, e peraltro molto specificate, quindi non è che sia un dato misterioso. No, non è un dato misterioso, però insomma è un... Allora, indennità parlamentare, diaria, viaggio, trasporto, spese di segreteria, spese telefoniche, dotazione informatica mensile, collaboratori dei deputati. Questo è l'ottimo, direi semplice di lettura, schema che oggi trovate sul Sole, che parte dall'Italia e poi affronta Francia, Germania, Spagna, così per deputati e senatori. Allora, i numeri sono 11.280, 3.500, 1.300, 258, sto andando veloce, prego. Più 3.700 di spese di segreteria, qui siamo nell'ordine dei 16.000 rotti euro. Ecco, questa cifra corrisponde allora allo stipendio dei parlamentari? Ma guardi, questa cifra corrisponde al costo dei parlamentari, però ci sono innanzitutto cifre che non sono al netto per quanto riguarda l'indennità. Perché se questo bisogna precisarlo, altrimenti pensano che uno si mette in tasca alla fine del mese 17.000 euro. Poi ci sono spese che il parlamentare sostiene, perché è chiaro che se dorme, se mangia queste cose sostiene, se telefona queste cose le sostiene, se ha un assistente queste cose le sostiene. Ecco. Si possono indubbiamente calibrare meglio queste voci. A proposito di assistenti, molto generose, però insomma non è che no, è chiarissimo, e ci mancherebbe altro, i deputati devono muoversi, devono mangiare, non sono diversi da noi altri. Però una domanda: gli assistenti sono uno dei capitoli dolenti. Allora, quando è che lo facciamo alla tedesca per comodità? Non è più semplice e oltre che più corretto, così magari evitiamo lo spettacolo devo dire osceno di assistenti parlamentari in nero che insomma non danno un bel modello. Lei... ma questo è un modello, è una piaga questa, indubbiamente. E quella va risolta, ma quando sarà risolta? Ma guardi, quando sarà risolta? Lì bisognerebbe che ci fosse una soluzione europea. Però siete voi a decidere la soluzione. Che gli assistenti fossero pagati dal Parlamento, dal sistema. Però bisognerebbe prima di tutto fare dei regolamenti, fare un contratto, fare delle tariffe per gli assistenti, però... altrimenti a questo punto, uno visto che lo paga a pantalone, uno ci mette tutto quello che vuole. Ho capito, no? Però Pantalone sta già pagando, questo è un punto. Onorevole, resti con noi, mi raccomando, abbiamo una telefonata da Lodi. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ci dica. Ma io sono dell'idea che gli stipendi parlamentari non debbano essere diminuiti, però se devono essere diminuiti i parlamentari ad un terzo, e poi deve essere legato lo stipendio alle 40 ore di lavoro di presenza in Camera e in Senato, perché logicamente devono essere parametrati come i lavoratori normali. Basta, tutto qua. Grazie a Massimo da Lodi, molto chiaro, direi quindi riduzione del numero complessivo dei parlamentari. Massimo dice gli stipendi, c'era un dubbio sul non, ma forse credo di aver capito bene che dice non è necessario ridurli, o comunque si possono ridurli, ma c'è questo elemento di mancanza di chiarezza che è davvero impressionante. E poi il discorso della permanenza in aula, in commissione, non lo so, un grosso interrogativo. Perché da un lato sono almeno come tanti cresciuto nell'idea che la politica si faccia poi nei paesi, nelle piazze, nelle città, per cui non lo so se è questa la soluzione. Di certo insomma il controllo del lavoro fatto è un elemento importante. Ci ha raggiunto nel frattempo il nostro secondo ospite di questa mattina, anche egli è un deputato dell'Italia dei Valori, ho detto prima Giuliano Cazzola da Bologna, Antonio Borghesi, se non sbaglio da Bolzano. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Ho detto bene, onorevole? Sì, benissimo, benissimo. Ecco, qui c'è un gran parlare di questa vicenda. C'è ovviamente un grosso elemento, diciamo, mediatico. Insomma, è ovvio che parlare dei vostri stipendi è un tema anche facile, che rischia di scivolare nel populismo, eccetera, eccetera. Però c'è un elemento impressionante che, da un lato, questa commissione produce, cioè alza le mani, che insomma stupisce, perché parliamo di un gruppo di professionisti, e dall'altro c'è la complessità. Leggevo prima anche all'onorevole Cazzolo, che ovviamente lo conosce benissimo, l'elenco che compone appunto lo stipendio, il costo della politica. C'è una complessità impressionante. Come si fa a semplificarla, onorevole Borghese? Guardi, innanzitutto il problema secondo me è un problema di natura politica, quindi tutti fanno i sacrifici, è inutile star lì a guardare che cosa succede in Europa oppure no. Se i sacrifici devono essere fatti, li devono fare anche i parlamentari, e il sacrificio vuol dire percepire meno di quanto si percepisce oggi. Questo è il primo punto. Anche se sarebbe bello politica. Capire quanto si percepisce oggi, perché intanto che c'è una questione secondo me che è la più grande di tutti, perché su quella non c'è confronto europeo che tenga, ed è quella dei vitalizi, che per noi resta fondamentale, per cui al contributivo si doveva passare per tutti, per quelli che li percepiscono dal passato e per chi li percepirà in futuro, e non soltanto per chi diventa parlamentare d'ora in avanti. E questo è un altro punto fondamentale, perché sono 200 milioni di euro all'anno, quindi passino tutti a contributivo, e così eviteremo di avere i problemi di chi con un giorno da parlamentare prende 3.000 euro al mese per tutta la sua vita, o di chi a 45 anni prende 8.000 euro quando l'età pensionabile alla gente normale viene fissata a 67 anni. E questo è il secondo punto. Pronto? Sì, la seguiamo con interesse. Quindi sì, terzo punto, la questione, l'indennità che noi percepiamo al netto delle tasse e dei contributi, che è di circa 5.000 euro al mese, è tutto sommato, credo, in linea con quanto avviene in Europa. Il vero problema nasce dagli abusi sugli extra. Gli extra valgono circa 7-8.000 euro al mese, e sono somme che in teoria vengono date a fronte di spese che devono essere sopportate dal parlamentare. Da un lato abbiamo detto che i parlamentari hanno le spese, e quindi, per carità, non sono gli unici. C'è troppa gente che considera questa un'entrata mensile esentasse, fra l'altro, invece che un'entrata che è relativa a spese che deve sostenere. Un'entrata mensile esentasse, tra l'altro. Sì, perché è un rimborso forfettario esentasse, ed è qui che bisogna intervenire. Perché si comincia a passare la gestione dell'assistente del parlamentare direttamente alla Camera, che vuol dire io lo scelgo, io stabilisco il contratto, questo è il contratto, da quel momento in poi sei tu, Camera, che provvedi per conto mio a pagare. Ecco, ho chiesto all'onorevole Cazzola proprio su questo punto, che è uno dei più decisamente, insomma, dei più ambigui, anche dei più sgradevoli, ma quanto ci vuole per fare questo ma non passaggio? È vero, ma insomma è solo una questione no volontà. Lo chiedo io, e lui non ha detto, io lo dal Presidente della Camera. Il vero problema sa qual è? Che oggi soltanto il 10% dei parlamentari ha un regolare contratto in essere con il suo assistente, perché quando uno ha un contratto regolare a una cifra normale di 1.500 euro al mese per tredicesima, quattordicesima, ferie, tutto quello che ci vuole, costa 3.000-3.500 euro al mese il contratto di per sé, e allora che cosa ci vuole? La verità è che troppa gente incassa queste somme e poi dà 500 euro magari in nero qualcuno per il lavoro che deve fare, e considera quella una propria fonte di reddito. E questo è davvero, che non può stare in piedi. Questo è davvero una cosa insopportabile. Torniamo tra un istante con i nostri ospiti, con gli ascoltatori. Prima chiedo però a Peter Bescapè di fare sentire a tutti noi gli aggiornamenti, perché in viaggio abbiamo avuto qualche problema sulle strade stamattina, vediamo se le cose vanno meglio. 47 minuti, allora abbiamo molti ascoltatori, vi invito alla sintesi e partiamo subito. Massimo da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ma niente, io volevo segnalare al parlamentare che ha parlato poco fa, che accennava allo stipendio che poi viene chiaramente detratto dalle tasse, ma all'estero come funziona? Credo che anche loro debbano pagare delle tasse sul loro stipendio. Penso quindi, proprio voglio dire, questo giochino del sì però no, dello sfumare questo stipendio è un gioco un pochino così, non ha senso, ecco. Sì, c'è un lato poco chiaro. Grazie a Massimo da Perugia. Gianfranco da Imperia. Sono da Sanremo, ciao, ah, complimenti ciao, per la trasmissione. Buongiorno da Sanremo, chiedo scusa. Prego Massimo. Allora, niente, io quello che volevo diciamo dire era sul fatto che ogni volta che andiamo a fare eleggere nuovi parlamentari, questi si accumulano, si ammucchiano sempre di più e diciamo che il diritto acquisito secondo loro, e questo rimane un discorso permanente, e quindi cioè mi sembra come una catena di Sant'Antonio che non si finisce mai, diciamo, di dare questi salari, questi uffici acquisiti all'interno del palazzo, e uno Stato alla fine, cioè il popolo, non so cosa può fare a sostenere tutto questo, dai comuni arrivare fino ai parlamenti. Grazie Gianfranco da Sanremo. Roberto da Bergamo, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno Roberto. Niente, faccio una piccola premessa. Secondo me innanzitutto è vergognoso che non si riesca a stabilire quanto effettivamente si percepisce, perché sui giornali si legge tante di quelle notizie che mi sembra un pochino differenziate a seconda di quello che è il reale stipendio di un parlamentare. Ma la cosa, diciamo, che mi chiedo in particolare è: ci stanno imponendo per la crisi, insomma, delle massacranti tasse, spese eccetera, e qui mi si continua a parlare di parametri della Comunità Europea. Non lo trovo, diciamo, corretto nel fatto che l'Italia ha una situazione che è totalmente differente rispetto agli altri stati europei, quindi i tagli devono essere secondo me parametrati alla situazione italiana, non tanto alla situazione globale europea. Grazie a Roberto da Bergamo. Allora io sentirei subito Luca che chiama da Parma e poi torniamo naturalmente ai nostri parlamentari. Prego Luca, buongiorno. Buongiorno, guardi, il problema è molto semplice, il fatto di quello che di quanto prendono i nostri deputati dovrebbe essere messo chiaramente alla luce del sole e non in modo farraginoso come ha detto per esempio Colucci l'altro giorno. Si parla tanto di equiparazione europea, lì c'è un'anomalia italiana, va ripristinata eccetera, però le anomalie italiane non vanno bene quando fa comodo a noi e invece ai deputati vanno bene quando fa comodo a loro. Allora anche le retribuzioni sono un'anomalia italiana, dovrebbe essere equiparata allo standard europeo. E l'altra cosa, c'è un dovere morale in un momento come questo per l'Italia, dove non solo sono in crisi i dipendenti, gli operai in cassa integrazione eccetera, ma addirittura si suicidano gli imprenditori, e tra l'altro bisognerebbe aprire una parentesi, vedere che queste persone non vengono minimamente sfiorate dal dubbio di stare sbagliando qualcosa. E questi moralmente non si sentono in dovere di mettersi in linea con il resto. Grazie, del paese. Grazie Luca. Allora Cazzola, direi che allora, questo guardi, è un quadro. Prego. Io sono abbastanza d'accordo con l'impostazione che dà Borghese, a parte la questione dei vitalizi, delle pensioni, che mi pare non sia l'argomento di cui discutiamo oggi. Beh, oddio, il tema è oggi del complessivo, del costo della trasparenza, alcune cioè è anche però questo. Che vanno chiarite. Prego. Innanzitutto i trattamenti dei deputati sono fermi da 5 anni. È stato fatto un taglio di 1.000 euro l'anno scorso. In secondo luogo bisogna anche distinguere tra quello che il deputato si mette in tasca e quello che spende. E da questo punto di vista è vero che c'è il malcostume degli assistenti. Il contratto che io con il mio assistente è non solo fatto dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro, ma addirittura certificato da un'università, dall'Università di Modena, e quindi io da questo punto di vista sono assolutamente in regola. Si può fare meglio, si possono stabilire delle tariffe degli assistenti che siano uguali per tutte, no? E che ci sia un mansionario degli assistenti e poi gli assistenti devono essere pagati, credo, dall'istituzione. Ecco Cazzola, lei è un buon esempio, lei dice c'è un abuso, ecco. Io sono in regola, sono perfettamente nelle condizioni di dire, premere su queste cose, ma quanto tempo ci vuole per affrontare? Io questa questione l'ho posta in aula nell'estate del 2008, la presidenza della Camera mi è riuscita a venirci a capo, perché l'unico provvedimento che hanno preso è quello di stabilire che chi non ha depositato il contratto, l'assistente non ha il tesserino per venire in aula. Sono cose queste che deve fare la presidenza della Camera. Io però voglio ricordare una cosa, allora, il deputato vive nel mondo, quindi adesso non è che ci sono state delle leggi che hanno tagliato gli stipendi ai lavoratori italiani, quindi se ci sono tasse in più, se, ci, se la benzina costa più cara, e queste cose gravano anche sul deputato. I tagli che sono stati fatti alle pensioni li abbiamo anche noi. Cazzola, mi scusi, però il punto non può non, non notare che noi che non siamo parlamentari le diciamo immediatamente: sì, ma voi fate le leggi e per questo dovete godere del massimo rispetto da parte nostra, perché il vostro è un ruolo centrale, non sarò certo io a dare fiato a concetti di altre politiche. Però voi siete in una posizione diversa, laddove non intervenite, io in questo momento non le posso leggere gli SMS e lo dico a un deputato che mi ha appena detto, e mi fa piacere, io sono in regola, il mio assistente ha un contratto, insomma ci sono dei tempi di reazione che sono fondamentali in questa fase. Torniamo da lei, Antonio Borghesi, onorevole Borghesi, dunque sì. C'è l'elemento dei tempi, non so, forse la vivo no, come... io dico che è sempre volontà politica, perché basta che la Camera, l'ufficio di presidenza della Camera si riunisca, che dal mese prossimo si paga solo su presentazione di documentazione, e allora le spese diventano spese vere e non, e nessuno può incassare dei soldi e poi trattenerseli invece che provvedere. Esatto, con quei, quindi soldi un mese ci vuole. È una cosa che può essere immediata. Un mese. Può essere immediata. Ecco, questo per esempio è un punto che farebbe credo molto piacere a tutti gli italiani, sapere che A, non c'è più lavoro nero, almeno in quella parte del Parlamento italiano, che e B, che c'è appunto un elemento di chiarezza. Questo è un elemento. Poi ha detto onorevole Borghesi, diciamo forse quello è il più evidente, il discorso dei costi. Come si interviene e in che tempi si può arrivare a dare un'idea chiara, indipendentemente dal valore assoluto dello stipendio, di quello che percepisce? Ma guardi, per me è immediato, perché nel momento in cui l'indennità è quella che abbiamo detto, circa 5.000 euro, e si toglie di mezzo quest'area grigia che è data da questi rimborsi spese esentasse, che come ho detto sui quali ci sono degli abusi enormi, si eliminino questi abusi alla radice con il criterio che ho detto prima, e immediatamente il costo del garantisco che cala, e cala in ragione del fatto che tutti coloro che intascavano questi soldi come reddito non potranno più farlo. È evidente che è immediata la cosa, e poi si intervenga davvero alla radice sui vitalizi, ripeto, stabilendo che il sistema contributivo vale anche per il passato, non solo per il presente e per il futuro, e anche quello vuol dire 200 milioni di euro all'anno in meno per i prossimi 20 anni, che non mi pare poco. Il fattore contributivo che viene esteso a tutti, che viene chiesto a tutti, e che naturalmente, e qui sicuramente il discorso dei vitalizi torna nel discorso generale del costo della politica e degli stipendi. Abbiamo ancora degli ascoltatori. Leonardo da Padova, buongiorno. Giorgio da Padova, poi avremo Leonardo da Roma. Prego, Giorgio. Buongiorno, io sono un dirigente di un'azienda di una certa dimensione e prendo 5.000 euro netti al mese, ho la macchina che uso naturalmente per lavoro, rimborso di tutte le spese che effetto, e naturalmente come in tutte le aziende private che controllano il cosiddetto costo del lavoro, perché altrimenti non stanno in piedi, io devo rendere conto di ogni spesa che faccio, perché quello che mi viene dato come in rimborso e come cosiddetta indennità, che viene così tanto sbandierata dai parlamentari, tutto quello che io spendo viene controllato dall'inizio alla fine, perché io lo devo spendere per il fatto che io lavoro, non perché me lo posso mettere in tasca. Se io faccio un'operazione del genere, questo non si chiama malcostume, questo si chiama una violazione ben precisa delle regole, e io vengo licenziato, ed è corretto che io venga licenziato. Ora, io non riesco a capire come sia possibile che si parli tranquillamente, la cosa mi fa veramente saltare tutto quello che i nervi, veramente, che si continui a parlare di indennità, di questo, di quello, senza parlare assolutamente di nessun controllo che queste indennità vengano spese e vengano utilizzate per quello per cui sono state varate. Grazie a Giorgio da Padova. Insomma, non è una colpa guadagnare bene o addirittura molto, e qui forse intorno alla cifra complessiva, a quello che appunto i deputati legittimamente, i senatori mettono in tasca, si avverte proprio anche attraverso la nostra posizione, che quello che fa davvero rabbia è la mancanza di chiarezza, la mancanza di certezze. Peraltro appunto i nostri ospiti stamattina ci hanno aiutato a dare degli elementi elementi di chiarezza. L'onorevole Borghese ci diceva ci vuole un mese a passare uno dei fattori, diciamo a eliminare uno dei fattori più sensibili. Abbiamo, l'avevo annunciato, da Roma ancora Leonardo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, per i suoi ospiti. Ecco, io volevo solo chiedere, questi tempi che dicono, perché non vengono mai riportati al pubblico e resi poi effettivi? Prima domanda. Seconda domanda, se lei ha parlato, il parlamentare che in trasmissione ha parlato di un 10% e solamente che ha i contratti in regola. Adesso la televisione di Stato fa la pubblicità sul parassita dell'uomo a destra e a manca, ma non esiste nessuno che può denunciare l'altro 90%. Grazie Leonardo, è chiarissimo, stringo per questione di tempo. Borghese, la domanda direi di Leonardo conclude perfettamente l'appuntamento. Allora, non c'è nessuno che può denunciare questo stato di cose? Borghese? Sì, naturalmente, come io ho già detto, per me è chiarissimo, si può fare in tempi rapidi. Vi ringrazio e aggiungo per precisazione che Bolzano è il mio luogo di nascita. Io da 40 anni sono veronese, per cui lo dico per precisarlo. D'accordo. Da lì siamo partiti, insomma siamo in conclusione. Io ringrazio Antonio Borghese, onorevole, che è stato con noi. Vi saluto, GR24, domani.